Bene, nuovamente buongiorno e rientro in diretta Radio Città Fujiko Breakfast Club, vigilia di weekend, appuntamento in scena per il 103.1 e per quanto riguarda un triplo appuntamento, beh, sono stato anticipante per quanto riguarda lo stacco della pubblicità, così daremo una continuità alla rubrica. La rubrica che alza sipario sui 103.1 vede tre appuntamenti estivi contenuti in tre rassegne. Cominciamo quindi da... Allora, inizia con un refuso. Buona giornata. L'altra mattina ho acceso a trasmissione già iniziata e stavate intervistando il curatore di un festival in cui avrebbero presentato le variazioni Goldberg in più organici strumentali. Era stata nominata Cesena, dopo ho cercato su internet ma non ho trovato. Mi pareva di aver capito Retroterre Festival, ma non ne facenno. Di che festival si trattava? Entroterre. Allora, non vorrei che con tanti appuntamenti che vanno in rassegna tu abbia confuso Entroterre con l'Emilia Romagna Festival. Ribadisco, le variazioni Goldberg sono all'interno della rassegna Emilia Romagna Festival, ok? Scusa se ti ho portato a travisare i contenuti. Ok, intanto allora continuiamo la nostra conversazione a distanza anche con Dario e Samantha. Carissimi, io non voglio apparire venale, però capisco il momento di condivisione. Non ho la possibilità di invitarvi a mie spese per un weekend nella Serenissima. Magari sarei la persona più fortunata e felice di ospitarvi e accogliervi nella città più bella del mondo, ma non molto volentieri, con un cuore tracimante di gioia. E quindi, detto questo, vale sempre l'invito. Però ricordate che se io non voglio apparire venale, ribadisco, ma se deciderò l'appuntamento a Venezia con Tad Weekend, ci vuole poi un regalo adeguato, non so, a buon intenditor, vedete un po' voi. Sì, non è che vi presentate con una bottiglia di pignoletto, ecco, cioè ci vuole poi un... così, dai. Con tutto il rispetto per il nostro vino. Comunque, detto ciò, cominciamo questa rassegna ufficialmente dopo alcuni chiarimenti per le scorse puntate in scena. Vi parlo di Teatro dei Mignoli, la rassegna nel luogo di culture e cultura ai 300 Scalini. Rassegna estate ai 300 Scalini, spazi aperti. Sono arrivati all'ottava edizione, è già partita nel giorno del 15 giugno, sarà fino al 1 settembre. Il programma è veramente vasto, è nell'ambito di rassegna estate. Il cartellone di attività promosso e coordinate dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna, territorio turistico Bologna-Modena. Per tutti gli eventi, almeno la rete in questo caso può essere utile, ai 300scalini.blogspot.com, così velocemente ho dato anche qualche indicazione per la logistica, dove ai 300 Scalini, Parco San Pellegrino, via di Casaglia 45. Per quanto riguarda l'estate ai 300 Scalini, ringraziamo il Teatro dei Mignoli e la rassegna culturale site specific della collina bolognese. Teatro dei Mignoli, che giunge alla sua ottava edizione, da giovedì al sabato lo spazio dei 300 Scalini nel parco di San Pellegrino accoglierà una stagione culturale trasversale e multidisciplinare. Abbiamo teatro, ovviamente, musica, trekking, yoga, poesie e arti varie per un totale di 20 appuntamenti. Nei giorni di apertura sarà presente, come per le passate edizioni, il chiosco Rifugio di Collina, che offrirà burger vegetali, dalla zuppa e il mestolo, tigelle e salumi dell'Appennino, vino, a proposito, dalla cantina Palazzona di Maggio, oltre che bevande varie. Gli spazi aperti, questi 20 appuntamenti per l'estate ai 300 scalini. L'inaugurazione è stato il 15 giugno, gli appuntamenti sono veramente molto variegati e eterogenei. La direttrice artistica Deborah Binci, un significato che quest'anno ci preme in particolar modo. Infatti l'estate ai 300 scalini 2023 consisterà nella riapertura dello spazio dopo grandi lavori che ci hanno visto impegnati durante i mesi autunnali e primaverili nella nuova copertura della serra. Insomma, una situazione che, come ho detto, terrà compagnia alle estate bolognesi dal giovedì alla domenica, mi pare, se ho ben letto, fino al settembre, quindi per tutta l'estate. La curatela è di Teatro dei Mignoli, lo spazio è veramente molto suggestivo e particolare. Già alcuni appuntamenti qua che potete trovare nella rassegna dal link che vi ho detto precedentemente e che vado a ripetere: ai 300scalini.blogspot.com. Anzi, lo dico bene, guardate, ai 300scalini.blogspot.com. Sentimo come sono informato, come sono bravo. Si vede che mi destreggio bene nel mondo dell'informatica. È schifo. E questo è il primo degli appuntamenti, per meglio dire la prima rassegna che ho voluto portare sotto i riflettori della rubrica In Scena, stacco musicale con The Panam, The Sound of Yoshinori Sunara. Andiamo in stacco musicale con questo electro-funk e torniamo tra pochissimo, perché si continua. Ci spostiamo un attimo in zona di provincia, ma che ormai è diventata zona periferica, vicino qua, guardate, di confine con la realtà della Noce di Bologna. Siamo veramente vicini al territorio comunale di Castelmaggiore. Non dico che sono metri, bastano pochi passi e già ci ritroviamo in quel del Trebbo, frazione di Castelmaggiore. Parleremo nello specifico invece di una manifestazione in collaborazione con Radio Città Fujiko, che è a Villa Salina. Tutto questo dopo il brano musicale. Buon ascolto. We'll be right back. nuovamente in diretta. Allora, un attimo solo, siccome è venerdì, siamo un po' stanchi, abbiamo la settimana sul groppone e anche i nostri mezzi tecnici probabilmente stanno risentendo di questo. Il Teatro dei Mignoli ha una direzione artistica che è curata da Deborah Binci. Ho provato a contattarla, lei aspettava il mio contatto, purtroppo questo contatto tecnicamente non è riuscito, ma adesso che ho mandato già i saluti e il prossimo appuntamento sono riuscito a trovare Deborah, e quindi perché no, magari un saluto. Ci sei, Deborah? Buongiorno. Ma sì, okay. sì, buongiorno. Guarda, senza voce, ma sì. Ok, anche perché ti ho chiesto una sveglia importante come orario, però beh, no, ma sono piuttosto i giorni passati che sono stati che intensi. Ti hanno provato. Ascolta, io ho già dato le direttive generali come logistica, appuntamenti, luogo, particolarità, l'eterogeneità degli appuntamenti, certo. Il link dove avere questo programma esteso, perché sai, io non posso darli tutti uno alla volta perché mi vorrebbero più ore di format, visto che arriviamo fino a settembre. Allora, cogliamo l'occasione per parlare 5 minuti di Teatro dei Mignoli. Certo. Dunque, Teatro dei Mignoli, che è un'associazione che ha compiuto 20 anni l'anno scorso. Auguri. Grazie. Nata nel 2002 a Bologna ed è sempre stata un'associazione fondata da Mirko Alboresi con una grande vocazione teatrale e soprattutto sociale. Quindi i primi interventi che per anni, anche che per più di un decennio l'associazione ha fatto, sono stati interventi più che altro di incursioni nelle periferie. Fino al 2018, per tanti anni, per esempio, abbiamo fatto questo festival che si chiamava In and Out, la cultura in condominio, dove appunto l'idea era quella del teatro a chilometro zero, quindi in tempi ancora non sospetti andare nelle periferie e portare il teatro laddove il teatro non c'era, piuttosto che far spostare le persone. E questo è stato un po' sempre il leitmotiv fino al 2014, quando si crea anche questo progetto, che è quello dei 300 scalini di cui William gentilmente ci ha parlato poco fa, e dove cerchiamo di riunire un po' tutto quello che abbiamo fatto, cioè la socialità, portare la cultura in luoghi insoliti, ma anche tante altre conoscenze, professionalità, idee, in uno spazio, come dire, sia fisicamente che anche posturalmente ecosistemico, dove tutte le cose possono convivere. Quindi non è un teatro, non è un giardino e basta, non è semplicemente uno spazio associativo, è un luogo associativo sicuramente, aperto completamente a qualunque tipo di istanza o di idea di nuovi soci, di nuovi soci che possono, che hanno voglia di salire in collina, ed è un modo anche per riprendersi degli spazi, iniziare a riprendersi degli spazi che magari fino a qualche anno fa erano visti come un po' più distanti, certo. Un po' più difficili da arrivare, invece sì. La collina è a due passi dalla città. Wow. Ascolta, siccome ho letto che è già iniziato, poi esattamente nel giorno invece del mio compleanno, che è il 15 Dai, giugno. Auguri a te. Grazie cara. Allora, ma non era per gli auguri, era per la coincidenza. Ci puoi dire prima del nostro congedo momentaneo qual è il prossimo appuntamento? Sì, già questa sera. Ok. Questa sera è la seconda giornata di un festival interno alla stagione. Questo festival si chiama Insorti, Festival d'Arte Performativa Site Specific. È iniziato trionfalmente ieri con uno spettacolo di Giulia Ponte. Oggi abbiamo alle 18:30 uno spettacolo di danza di una coreografa giovanissima che si chiama Noemi Piva, si intitola Tra o sulle cose in mezzo, uno spettacolo di danza sul transitare, quindi bene. Chi siamo e cosa succede quando migriamo da un punto A a un punto B. Successivamente il sussurro del giardino con Barbara Eforo ed Erika Canini, una performance per uno spettatore alla volta, dove è possibile ancora prenotarsi. E per tutto l'arco del festival ci sono due installazioni meravigliose, una intitolata Totem di Nicola Citriniti, che sono proprio questi totem un po' post-apocalittici, no? Dove gli scarti, l'immondizia hanno preso forma, si sono fatte figure totemiche, e un'altra è Fasal Bali, Museo del Suono, un'installazione sonora di Alessandro Gaffuri e sulla Medina di Fez. Perfetto. Queste installazioni sono per tutto il festival, invece le performance live cambiano ogni giorno, domani invece sarà l'ultimo. Alle 18 apriamo i cancelli, si può vedere tutto, le installazioni, bere le birre, mangiare i burger vegani, eccetera. Sì, ho letto, il menù l'ho già dato in precedenza, quindi io ti ringrazio, sei stata gentilissima. Mi dispiace per questo inciampo tecnico di cui ne sono totalmente innocente. Ti ringrazio chiaramente per la disponibilità e gli auguri, che ricambio augurandoti una buona estate. Ciao, anche a te, grazie. William. Ciao Deborah, buona giornata. Buona giornata, ciao. People from places and spaces.